Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. In questi giorni molti hanno riletto ed evocato anche pubblicamente le pagine sulla peste scritte da Manzoni nei Promessi Sposi. Proprio in quest'opera viene ricordato un antico proverbio, ancora oggi fortemente in auge, per cui del seno del poi son piene le fosse. Ci sarà un tempo per tutto, ma oggi è il tempo dell'azione, il tempo della responsabilità, dalla quale nessuno può fuggire. La responsabilità massima compete al governo, senz'altro. Ne siamo consapevoli. Avete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il Presidente del Consiglio oggi in questa informativa che ha tenuto oggi alla Camera sul coronavirus, sulle azioni del governo, ha citato Manzoni, dice del senno del poi sono piene le fosse, nel senso che chi dice adesso avremmo potuto, avremmo dovuto, ci sarà tempo poi per le polemiche, dice adesso però l'importante è agire. Ha fatto un bilancio di quello che ha fatto il governo da che è iniziata questa epidemia, questa emergenza coronavirus anche in Italia, poi ha detto sono consapevole della necessità del coinvolgimento del Parlamento che ritengo doveroso, e domani poi l'informativa sarà anche al Senato. Non è parsa particolarmente soddisfatta l'opposizione, poi ne parleremo ampiamente nello spazio politico tra poco. Ovviamente vi ricorderò anche quelli che sono i dati italiani e nel mondo per quanto riguarda la pandemia di coronavirus. Poi ci occuperemo con il direttore del Mattino e anche con il sindaco di Messina della situazione del sud, perché c'è stato fra gli altri in particolare il grido d'allarme del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che ha detto noi non abbiamo le strutture sanitarie del nord, se non ci arrivano i dispositivi di sicurezza per questa emergenza rischiamo veramente l'inferno. E poi oggi purtroppo è morta una dottoressa e poi altri due, una dottoressa a Bergamo e due medici a Brescia, e sono arrivati a 33 il numero di medici che sono morti dall'inizio di questa emergenza. E c'è un avvocato che è stato chiamato da una famiglia per ricevere un indennizzo appunto per queste morti praticamente sul lavoro in trincea, potrebbe essere un precedente, ne parleremo con lo stesso avvocato. E poi molte altre cose da raccontarvi naturalmente come sempre nell'arco di questa puntata. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, oppure sms e whatsapp al 349-238-6666, 349-238-6666. Durante il giorno c'è il Twitter di Effetto Notte, che è Roby con la Y lineetta bassa Giordano. Sintesi della giornata. La pandemia nel mondo, sono ormai oltre 20.000 le vittime, per la maggior parte in Europa, secondo i dati dell'agenzia France Press. In Spagna situazione drammatica, positivo il principe Carlo d'Inghilterra, crescono i contagi negli Stati Uniti. In Italia superati 7.000 morti, complessivi 9.362 i guariti. Assente alla conferenza stampa della Protezione Civile Borrelli, in quarantena con febbre, Bertolaso è stato ricoverato. Morti sinora 33 medici, un avvocato chiede indennizzi per le famiglie, sarà ospite di Effetto Notte. L'informativa di Conte alla Camera, saremo all'altezza, ha detto il Presidente del Consiglio, la storia ci giudicherà, verrà il tempo dei bilanci, tutti avranno la possibilità di sindacare, ora al lavoro sul nuovo decreto per altri 25 miliardi. Le misure economiche e l'Europa, manovre imponenti per sostenere l'economia, la lettera dei leader europei che chiedono i corona bond. L'umanità intera è minacciata dal coronavirus, lo affermano le Nazioni Unite annunciando un piano globale contro la pandemia. Test per diagnosi in Belgio, un test screening in 15 minuti, ha ricevuto la certificazione dell'Agenzia federale. Buon compleanno Mina, la tigre di Cremona compie 80 anni. Partiamo quindi dai dati della pandemia nel mondo, sono ormai oltre 20.000 le vittime di coronavirus, per la maggior parte in Europa, secondo i dati dell'agenzia France Press. Drammatica la situazione in Spagna, negli Stati Uniti 60.000 contagi e 200 morti nelle ultime 24 ore, ben oltre 400.000 casi nel mondo, 20.000 i morti, circa 3 miliardi di persone chiuse in casa. Più morti della Cina, la pandemia continua a mietere vittime in Spagna. Più 738 nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.434. Positiva anche la vice premier Carmen Calvo. E positivo in Gran Bretagna pure il principe Carlo, in autoisolamento e con sintomi lievi in Scozia insieme alla moglie Camilla. Rassicurazioni da Buckingham Palace sulla salute invece della regina Elisabetta. Siamo solo all'inizio di questa lotta al virus, fa sapere dalla Germania il presidente del Koch Institute, di fronte a 33.000 contagiati e 150 morti. La Francia va verso la proroga delle misure di confinamento, i contagi si moltiplicano in diversi stati africani, mentre si assottiglia sempre di più il fronte negazionista. Se il leader bielorusso Lukashenko nei giorni scorsi aveva proposto un mix di vodka, sauna e lavoro per sconfiggere il virus, di isteria collettiva continua a parlare il presidente brasiliano Bolsonaro, contrario alle misure restrittive pure già varate da molti governatori locali nel paese. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia, secondo i dati aggiornati della Protezione Civile, assente il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Borrelli, in conferenza stampa oggi perché ha la febbre. Dicevo, i dati aggiornati della Protezione Civile per l'Italia, 74.386 casi totali, 7.503 i morti, continuano a aumentare i guariti. Oggi i guariti sono 1.036, che cifra che porta il totale dei pazienti guariti a 9.362. È di 3.491 l'incremento delle persone attualmente positive, totale che porta i positivi a 57.521. Sono 30.920 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e 3.489 i pazienti in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi dobbiamo riscontrare un numero di 683 nuovi deceduti. Ricovero invece, prima dicevamo Borrelli appunto assente alla conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile, c'è stato il ricovero invece a San Raffaele per Guido Bertolaso, il consulente arruolato della Regione Lombardia. Siamo scesi nei giorni scorsi di uno scalino, ora possiamo dire di esserci attestati verso valori più bassi. E questa è la lettura che l'assessore al welfare Giulio Gallera ha dato sui numeri di oggi, che vedono i positivi a quota 32.346 più 1.643, ma meno di ieri. I ricoverati sono 10.026 più 315, mentre ieri erano aumentati di 445. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236 più 42, i decessi sono 4.474, in aumento di 296 persone, molto meno di ieri quando erano saliti di oltre 400. Altri due medici si aggiungono alla lista di decessi di Camici Bianchi, sono due odontoiatri di Brescia e sale così a 33 il totale dei medici deceduti. E 81 sindaci della città metropolitana di Milano hanno firmato un appello rivolto alla Regione Lombardia in cui chiedono un cambio di strategia contro il coronavirus, che prevede di fare tamponi a tutte le persone con sintomi riconducibili al Covid-19. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a parte appunto, vi dicevo sin dall'inizio della morte ormai di 33 medici in Italia, ormai in prima linea, insomma, sono tantissimi quelli che si ammalano tra medici e infermieri. Poi vi dicevo ci sarà un avvocato ospite che parlerà di un possibile indennizzo alle famiglie. L'OMS, a proposito dei medici, ha detto: oggi ammiriamo i nostri colleghi in Italia, sono degli eroi, stanno lottando con forza e coraggio, noi approviamo e sosteniamo le misure prese dall'Italia contro il coronavirus. Lo ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell'OMS, nella consueta conferenza stampa sul coronavirus. L'impegno del governo, ha detto ancora, è davvero incredibile. E poi Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, ha detto: non solo, anche l'impegno dei cittadini è straordinario, l'Italia sta facendo tutto il possibile, ha sottolineato il direttore generale dell'OMS. Ed è quello che ha ribadito dal canto suo il presidente del Consiglio Conte nella sua informativa oggi alla Camera sul coronavirus. Il governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza, approntando ben prima di qualunque altro paese le misure di massima precauzione. A partire dal 22 gennaio, ben prima che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità decretasse e dichiarasse il coronavirus emergenza internazionale di salute pubblica. Dopo ne parleremo più nel dettaglio di questa informativa che poi domani farà al Senato Conte. Le Nazioni Unite hanno annunciato un piano globale contro la pandemia, 2 miliardi di dollari per combatterla in Sud America, Africa, Medio Oriente e Asia. Secondo l'ONU l'umanità intera è minacciata e l'Europa cerca di muoversi unita. Il presidente Conte ha firmato insieme ad altri leader europei una lettera per chiedere, in vista del vertice europeo di domani, la creazione di corona bond per fronteggiare la crisi economica. Nonostante le profonde spaccature interne all'Eurogruppo, certificate ieri dall'assenza di un comunicato finale, solo in parte compensato dalla lettera stamattina del suo presidente Centeno ai leader europei, una parte dei paesi comunitari spinge per un passo ulteriore puntando sui corona bond. 9 leader, tra i quali il premier Conte, il presidente francese Macron e il premier iberico Sanchez, hanno firmato una lettera congiunta per chiedere, in vista del vertice europeo di domani, la creazione proprio di bond per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia. Il fronte unisce l'Europa del Sud, parte del Benelux, Olanda esclusa, Irlanda e Slovenia. La risposta europea, anche sul piano economico-finanziario, deve essere poderosa e coesa, ha scritto il premier Conte su Facebook. E persino la presidente BCE Lagarde si sarebbe schierata ieri nel suggerire ai ministri delle finanze dell'Eurogruppo la creazione di corona bond in versione una tantum per fronteggiare la situazione emergenziale. La Lagarde ha fatto capire che il ricorso a linee di credito del meccanismo europeo di stabilità rappresenta solo un passo iniziale. Olanda e Germania però frenano su qualsiasi mutualizzazione del debito, e a rendere la situazione più complicata ci sono pure le possibili condizionalità legate alle linee di credito del MES. Il Bundestag intanto ha approvato un bilancio aggiuntivo per finanziare il pacchetto di aiuti per l'emergenza, che prevede nuovi debiti per 156 miliardi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Banca Centrale Europea, la BCE, sarebbe disponibile ad attivare il piano antispread per l'acquisto di titoli di Stato per sostenere l'economia dell'Eurozona. Lo strumento era stato messo a punto nel 2012 dall'ex presidente Mario Draghi durante la crisi dei debiti sovrani, ma finora non è stato mai utilizzato. Per quanto riguarda l'Italia, ha trovato l'accordo tra sindacati, imprese e governo sulle attività che si fermano. Governo e sindacati hanno raggiunto l'intesa e sforbiciato il numero delle attività produttive indispensabili che devono rimanere aperte nonostante l'emergenza coronavirus. Abbiamo rivisto l'elenco delle attività, spiegano CGIL, CISL e UIL, ed è stato tolto tutto ciò che non era essenziale visto il momento difficile che stiamo vivendo. Nelle attività aperte chi lavora dovrà avere i dispositivi di protezione individuale e, dice il segretario della CGIL Maurizio Landini, va rigorosamente applicato il protocollo sulla sicurezza siglato nei giorni scorsi a Palazzo Chigi. Ora tutti quelli che dovranno andare a lavorare nella sanità, nell'agroalimentare, nel commercio, nei trasporti e anche in alcune attività industriali essenziali debbono poter lavorare in sicurezza. L'intesa prevede anche che i prefetti dovranno coinvolgere i sindacati territoriali per l'autocertificazione delle imprese funzionali alla continuità delle filiere essenziali. C'è poi l'impegno del Ministero della Difesa, sottolineano i sindacati, a ridurre la produzione nel settore militare, salvaguardando solo quelle indispensabili. Da un esame più attento del decreto sullo stop alle attività non essenziali emerge inoltre la sospensione di tutti i cantieri aperti per la ricostruzione nelle zone terremotate del centro Italia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito della possibile chiusura dei distributori di carburante, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli si è impegnato a convocare un tavolo tecnico tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Ministero del Lavoro per valutare le misure a favore della categoria che possano essere adottate dal governo. I risultati sono attesi a brevissimo, nel giro, è stato detto, di ore o di pochi giorni. La scuola è un altro dei capitoli delicati che il governo affronta giorno per giorno. Per la ministra dell'istruzione Azzolina, il 94% degli studenti sta seguendo attraverso la didattica a distanza. Restano incerti i tempi e modi della ripresa dell'anno scolastico, lo ammette di fatto la ministra dell'istruzione Azzolina. Riapriremo le scuole solo con la massima sicurezza, spiega l'esponente del governo durante il question time alla Camera. Si avrà quando il quadro epidemiologico lo consentirà, garantendo quindi la massima sicurezza a tutti gli studenti. Incertezza che coinvolge anche l'esame di maturità. I docenti, gli studenti e le loro famiglie saranno messi nelle condizioni migliori per svolgere un esame serio e riceveranno tutte le informazioni in merito alle modalità che saranno adottate non appena avremo un quadro anche temporale più definito. La scuola sta dando prova di responsabilità assicurando la continuità della didattica attraverso i mezzi digitali a disposizione, raggiungendo il 94% degli studenti, spiega quindi la ministra Azzolina, che rivendica poi gli 85 milioni di euro stanziati per dotare gli studenti meno abbienti di supporti digitali. Attenzione anche del governo all'inclusione degli studenti con disabilità. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da oggi è attiva sul sito di Radio 24 un'intera sezione dedicata alla scuola, a disposizione di insegnanti e studenti, molti contenuti che vanno dalla storia alla scienza alla tecnologia. In Belgio è stato appena lanciato un nuovissimo test di screening per il Covid-19 che in 15 minuti certifica o meno lo status di positività della persona che vi si sottopone. Lo scrive l'agenzia di stampa belga e la TV nazionale RTBF, precisando che il test ha ricevuto la certificazione dell'Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari del Belgio, responsabile dell'approvazione e della registrazione di nuovi farmaci nel paese. Vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà. Degli aggiornamenti dalla Russia, sarà rimandato dato a causa dell'emergenza coronavirus il voto nazionale sulla riforma costituzionale russa che tra le altre cose potrebbe permettere a Putin di rimanere presidente fino al 2036. Lo ha annunciato lo stesso Vladimir Putin in un discorso alla nazione, il voto era in programma per il 22 aprile. Tra l'altro, sempre il presidente Putin ha chiesto l'imposizione di una tassa del 15% sui capitali che dalla Russia vengono esportati all'estero, nonché l'introduzione di una tassa del 13% sugli interessi generali da investimenti finanziari, ma solo se il capitale investito è superiore a 12 milioni di rubli, ovvero circa 12.000 euro al cambio attuale. I proventi verranno utilizzati per finanziare le misure sociali anticrisi. In pratica si tratta di una tassa sugli oligarchi e sulla classe più abbiente russa. Di nuovo in Italia, come nei giorni scorsi ha fatto Giovanni Rana, della pasta fresca Rana, grande azienda, nei giorni dell'emergenza coronavirus anche il gruppo Mutti fa la sua parte devolvendo 500.000 euro all'azienda ospedaliera universitaria di Parma e poi oltre all'attivazione per quanto riguarda i lavoratori, oltre all'attivazione di una copertura assicurativa extra relativa al Covid-19 per i dipendenti, ha aggiunto l'amministratore delegato Francesco Mutti, abbiamo disposto una maggiorazione del 25% sulla retribuzione di coloro che anche in questi giorni stanno permettendo alla nostra azienda e al paese stesso la continuità produttiva, così appunto come ha fatto, vi annunciavo nei giorni scorsi, Giovanni Rana. E poi c'è una polemica che è venuta fuori nell'ultima ora, ora e mezza, che riguarda la denuncia da parte di alcuni esponenti di Forza Italia e della Lega di una puntata del TGR Leonardo del 2015 in cui si parlava di un pericoloso supervirus creato in Cina in laboratorio. Allora, poco fa alcuni scienziati sulla rivista Nature Medicine, questo gruppo internazionale di ricerca guidato dal californiano Scripps Research Institute, da questo istituto hanno detto che non c'entra assolutamente nulla questa notizia con il coronavirus e al TG1 delle 20 ha parlato anche la scienziata italiana da tempo in America, Ilaria Capo, assentiamo questo passaggio. Il Covid-19 è un virus che deriva dal serbatoio selvatico, non sappiamo ancora quante specie animali abbia colpito prima di arrivare all'uomo. Vorrei dire ai complottisti che il codice a barre, la sequenza di quel virus di cui si parla nel TG Leonardo è parte integrante della pubblicazione, quindi se il Covid-19 fosse stato vicino a quel virus lì lo avremmo saputo subito, il giorno dopo. E adesso un po' di musica. Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma... Ecco, potremmo immaginarcele così le nostre case, le nostre stanze senza più pareti, piene di alberi almeno per un po' di tempo. Lo canta Mina, lo canta da una vita. Mina, anche lei è cresciuta, compie oggi 80 anni e pensate che da oltre 40 vive reclusa lei, celandosi alla vista del pubblico, alimentando vari misteri. Ormai è diventata un mito lei, infinito talento, anticonformista da sempre. In un'intervista ha detto: preferisco un contratto a vita con la mia famiglia che con la TV, il rapporto col pubblico lo vivo con i miei dischi. Allora, comunque sia, sempre lei, buon compleanno Mina. Fosse più niente, più niente al mondo. Ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci ancora insieme proprio per proseguire in questi 60 minuti pieni pieni di notizie, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, gli approfondimenti degli ospiti che cominceranno tra pochissimo e poi i vostri commenti, le vostre riflessioni alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Chiedeva un'ascoltatrice, vediamo se la ritrovo, Rosanna dice: vorrei sapere se è vero che gli indiani, i pakistani e altri extracomunitari, secondo quanto gira sui social, non hanno le complicanze gravi del coronavirus perché vaccinati contro la tubercolosi, e se è vero se si stia studiando qualche soluzione in tal senso. Allora Rosanna, per quel che so, ovviamente perché non sono una virologa, però sentivo sempre la scienziata Ilaria Capua, che è stata, sapete, qualche volta anche qui Effetto Notte, che diceva che effettivamente parrebbe che alcune etnie sembrano un po' più salvaguardate naturalmente, così in natura, però ancora non si è capito quale sia effettivamente il motivo, così come le donne sembrano, questa pare una certezza invece, un pochino più, diciamo, protette, e anche qua non si capisce bene perché, nel senso che sono morte anche tante donne purtroppo naturalmente, come tanti uomini, però le donne sarebbero circa la metà degli uomini, almeno per quanto riguarda l'Italia, ma gli studi sono stati fatti anche altrove e resta ancora tutto molto da capire, di certezze ce ne sono pochissime. Direi a questo punto che possiamo passare al primo ospite. Continueremo nel nostro ordinamento interno a operare con la massima determinazione, col massimo coraggio e con la massima fiducia che, restando uniti, ne usciremo presto. Questo è uno dei passaggi del Presidente del Consiglio Conte oggi nell'informativa che ha tenuto alla Camera. Intanto saluto per questo la nostra Barbara Fiammieri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera a tutti. Tra l'altro è stata un'occasione in cui il Parlamento è un po' tornato in campo, perché tanti, no, parlamentari dicevano, insomma, ma le Camere, riapriamo il Parlamento. In realtà il Parlamento pare che sia sempre stato aperto, però non è che ci si può più assembrare, affollare il Parlamento. Ecco, forse Barbara, posso fare una battuta un po' cattivella, magari prima, quando c'era necessità di riempirlo, qualche volta si vedevano i banchi vuoti, adesso invece no, ci si lamenta perché non lo si può riempire, però lì dove potevano esserci senatori, deputati piuttosto separati gli uni dagli altri, erano presenti oggi ad ascoltare appunto Conte, che per la prima volta ha tenuto un'informativa sul coronavirus e ha parlato per quasi un'ora, ha incassato un solo applauso unanime quando ha parlato ha ricordato le vittime del virus, le persone scomparse, tutti i loro familiari e comunque chi sta lottando in prima linea. Certo, e poi dopo invece dall'opposizione ha parlato Guido Guidesi, leghista di Codogno, che ha ricordato l'inferno della zona rossa e poi ha detto: non ho ancora sentito un appello alla collaborazione delle opposizioni, cui non si può solo chiedere di non fare polemiche. Dopo andremo su questo punto, Barbara, però sentiamo un altro passaggio di Conte, dove dice: finora il governo ha agito con speditezza. Il governo ha agito con la massima determinazione, con assoluta speditezza, approntando ben prima di qualunque altro paese le misure di massima precauzione, a partire dal 22 gennaio, ben prima che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità decretasse e dichiarasse il coronavirus emergenza internazionale di salute pubblica. E poi, sempre facendo un bilancio di quello fatto finora dal governo, ha parlato delle misure che sono arrivate man mano graduali, no? Dei vari decreti di cui abbiamo parlato molto qui Effetto Notte. Sentiamo. La scelta degli interventi effettuati, vorrei ricordare, si è sempre basata su accurate valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e ha mirato a contemperare l'esigenza di incidere in maniera bilanciata tra benefici e sacrifici imposti alla vita dei cittadini. I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione delle misure contenitive del contagio sono stati quelli della massima precauzione, ma contestualmente anche della adeguatezza, della proporzionalità dell'intervento rispetto all'obiettivo perseguito. E questa è la ragione della gradualità delle misure adottate, che sono diventate restrittive via via che la diffusività, la gravità dell'epidemia si sono manifestate con maggiore severità. Barbara, poi Conte ha detto molte altre cose, ha parlato per circa un'ora, ha detto che il coronavirus è un nemico invisibile e insidioso, che c'è stato il coinvolgimento sempre assicurato anche delle regioni nelle varie decisioni che ha preso il governo e che il coinvolgimento delle Camere è necessario e doveroso e che ci saranno informative ogni 15 giorni, no? Mi pare, Barbara. Sì, diciamo, ha fatto questo intervento, non ci sono stati colpi d'ala, non ho fatto un appello all'opposizione, non... è stato abbastanza, come dire, riassuntivo, no? In quello che ha detto, più o meno, no? In quello che è stato fatto finora dal governo da che è iniziata l'emergenza. Sì, Barbara. Sì. Appunto, ha snocciolato un po' di numeri e soprattutto è stato, secondo me, un intervento anche giocato per difendersi da quelli che erano stati gli attacchi in questi giorni delle opposizioni, cioè lui ha ricordato... sostanzialmente soprattutto, no, da parte di Salvini che lo accusava di essere intervenuto troppo tardi e lui ha ricordato che nel momento stesso in cui il virus si era manifestato c'è stata una immediata iniziativa del governo, ha ricordato il primo decreto quando era stato preso, quello appunto in cui si dichiara l'emergenza nazionale, ha ricordato tutta una serie di passaggi. Quindi direi che è stato un intervento giocato molto in difesa e molto su, come posso dire, su dei riferimenti puntuali ma su burocratici quasi, no? Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, c'è stata una gradualità. Però... A questo proposito, Barbara, scusa, sentiamo anche gli interventi, i passaggi sugli aspetti economici, no? Del sostegno economico a questa crisi, per esempio quando parla della liquidità necessaria per le imprese. I contraccolpi economici dell'emergenza sanitaria naturalmente riguardano da vicino il mondo delle imprese. È imperativo perciò garantire il massimo grado possibile di liquidità alle imprese. E il governo ha già predisposto delle prime misure significative che permettono di attivare complessivamente 350 miliardi di euro di finanziamento a beneficio del mondo produttivo. E poi parla di questo decreto legge da almeno 25 miliardi. In queste ore stiamo lavorando per incrementare il sostegno alla liquidità di cui il Paese ha tanto bisogno, al credito, che già dicevo porta a mobilitare attualmente con il decreto già adottato Cura Italia circa 350 miliardi di euro. Con il nuovo intervento normativo che è in corso di elaborazione, confidiamo di pervenire a uno strumento complessivo altrettanto significativo rispetto a quanto sin qui operato. E interverremo anche con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati con il primo decreto. Invece poi, Barbara, a livello europeo l'Italia insieme ad altri leader europei, 9 paesi in tutto, anche il presidente francese Macron, hanno firmato una lettera congiunta per chiedere, in vista del vertice europeo che ci sarà domani, la creazione dei cosiddetti corona bond per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia. Ci spieghi, Barbara, che cosa sono, così in modo semplice, e poi ci sono, ricordiamo però, altri stati rigoristi che non ne vogliono sapere, no? In testa Germania e Olanda, perché non sono pronti a superare questo tabù della condivisione delle risorse e soprattutto dei debiti. Beh, esattamente quello che stavi dicendo, cioè è chiaro che nel momento in cui ci fosse l'emissione di titoli di debito pubblico europei, questi titoli si mutualizzerebbe il debito, cioè anche paesi che in questo momento potrebbero non ricorrere a debito pubblico si ritroverebbero a dover garantire il debito dei paesi che invece ne hanno bisogno. Quindi è complicato farglielo questo digerire, no? Immagino. Sì, è chiaro. Cioè, il paradosso è che noi da un lato assistiamo continuamente tutti i giorni a delle critiche all'Europa da parte, diciamo, dei cosiddetti sovranisti, per esempio in Italia, no? La Lega, la Meloni, che attaccano dicendo l'Europa non fa niente, però paradossalmente stavo dicendo l'Europa non fa niente perché ci sono degli egoismi nazionali da parte di paesi che spesso hanno governi di centrodestra, come può essere appunto l'Olanda, l'Austria e in Germania per quello che è la posizione della CDU, quindi che come dire non sono disponibili a sostenere quelli che ritengono dei paesi più leggeri, meno oculati nella gestione delle loro risorse. Allora, questi corona bond però torniamo al punto di partenza, dovrebbero essere finalizzati esclusivamente all'emergenza determinata dall'epidemia, quindi al sostegno di interventi nelle infrastrutture sanitarie, a sostegno realizzazione di ospedali, ad esempio, o comunque a sostenere le imprese e l'economia che hanno subito per queste, pensiamo soltanto alla chiusura, no? Imposta da praticamente ormai da quasi tutti i governi, imposta dall'epidemia, quindi un sostegno momentaneo, no? Attraverso dei titoli pubblici europei, un sostegno momentaneo per fronteggiare l'epidemia. L'abbiamo detto già diverse volte, questa è un grande banco di prova anche per la tenuta dell'Europa, per il senso che ha l'Unione Europea, no, Barbara? Sì, anche perché insomma, mentre si sta pensando di allargare l'Europa, all'Albania, alla Macedonia, dall'altro rischi di perderti l'Italia, la Spagna e forse anche la Francia. Già. Ma non lo so. I paradossi in quest'epoca strana. Mi sembra tutto un po' assurdo. Il problema è che siamo in presenza di leader deboli, perché non ci sono grandi leader in questo momento in Europa, sono tutti leader un po' azzoppati, e anche le opposizioni sono opposizioni populiste, cioè non vediamo grandi leader, cioè parlo di statisti, di gente che abbia una prospettiva, cioè che io non riesco a capire, cioè al di là degli slogan, un'altra Europa, che vuol dire poco, non riesco a capire per esempio Salvini che dice che vuole un'altra Europa e poi però i suoi alleati in Europa sono i principali nostri nemici, cioè i nostri avversari sono quelli che proprio, io ho molto più sostegno da parte di Macron, che è un avversario di Salvini, rispetto al suo amico Orban o alla sua amica Le Pen o al suo amico Kurz. Quindi rimane difficile capire, no, che cosa poi sia la prospettiva, il disegno politico che si pongono questi leader. Barbara, sentiamo a proposito di essere all'altezza anche questa riflessione che ha fatto Conte sempre oggi in questa informativa alla Camera. Siamo all'altezza del compito che il destino ci ha riservato? La storia domani ci giudicherà. Verrà il tempo dei bilanci, delle valutazioni su quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Tutti avranno la possibilità di sindacare, frigido pagatocque animo, il lavoro svolto e trarne le conseguenze. E ne trarremo le conseguenze. Speriamo bene, cara Barbara Fiammeri, noi tanto ci sentiamo molto presto. Grazie. Come conseguenza ti abbraccio in questo saluto. Ciao Barbara. Arrivederci. Ciao cara. Allora, ci prendiamo come sempre a questo punto una piccola pausa di riflessione, di respiro. Voi scrivete i vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure se volete SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Vedo molte vostre domande, poi commenti anche. La Germania si è arricchita, non ha pagato neanche i risarcimenti della Seconda Guerra Mondiale, critica qualcuno. Poi, ma secondo voi se l'Italia si impegnasse a debellare l'evasione fiscale, l'atteggiamento dell'Europa potrebbe cambiare? Chiede Rita. Bella domanda. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte lo sapete ormai da tempo, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, momento giusto, al posto giusto, soprattutto se siete a casa, dovete essere a casa, a meno che, come mi scrive qualcuno, un guardia giurata che sta lavorando, oppure ieri anche qualcuno che scriveva sto guidando un'ambulanza, o altri per fuso orario che sono dall'altra parte del mondo, mi scrivono dal Brasile, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall'Africa, quindi mi raccomando, però lo sapete che bisogna restare a casa ormai in tutto il mondo, sono miliardi le persone che sono a casa in questo momento. 349-238-6666 in questi frangenti, oppure pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. C'è per esempio un ascoltatore che dice, poi il programma naturalmente antivirus, perché più lo ascoltate più vi informate, e anche antistress spero per questo ascoltatore, che dice: comincio a sentire forte il peso dello stress. Cara Roberta, sebbene le percentuali assolute finalmente sembrino abbassarsi, qui in Sicilia, dice, si procede a ritmo spedito del più 20% ed è anche arrivata una bella allerta meteo, piove da circa 24 ore consecutive a Palermo. In effetti sta arrivando pure il brutto tempo verso il sud, di cui parleremo proprio adesso, perché l'avete sentito dai numeri, è sempre drammatica la situazione in Lombardia, in particolare a Bergamo e Brescia, con immagini terribili che continuiamo a vedere. Poi c'è l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto, situazione sempre più difficile anche nelle Marche, e da giorni si esprime molta preoccupazione per quello che potrebbe succedere a giorni nel sud. Perché? Principalmente perché migliaia di persone, come sapete, nelle settimane scorse, chiudendo le scuole, le università, alcune aziende, sono scese verso il sud, verso i paesi d'origine. Poi per la pericolosa sottovalutazione che molte persone al sud continuano a dimostrare, ho visto ancora oggi, erano immagini di persone al mercato al sud, e poi per il fatto che naturalmente nel meridione non ci sono purtroppo le strutture sanitarie che ci sono al nord. Alcuni presidenti di regione al sud hanno lanciato un grido d'allarme. Oggi per esempio il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha scritto una lettera a Conte in cui ha detto, tra le altre cose: la comunicazione di questi ultimi giorni relativa all'epidemia è gravemente fuorviante, i prossimi 10 giorni saranno al sud un inferno, scrive De Luca, siamo alla vigilia di un'espansione gravissima del contagio al limite della sostenibilità, soprattutto perché, questa è la denuncia dei presidenti di regione di Campania ma anche della Puglia, Emiliano, non sarebbero ancora arrivati i dispositivi sanitari necessari, e della situazione complessiva difficile del sud che si prospetta ancora appunto più preoccupante. Voglio parlare con Federico Monga, che è direttore del quotidiano Il Mattino. Buonasera Federico e grazie della disponibilità. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Quindi è effettivamente, insomma, le prospettive sono preoccupanti, proprio per quello che diceva anche De Luca, no? In questa lettera, il sistema sanitario del sud, il fatto che non arrivano dispositivi di sicurezza e anche il fatto che molti la stanno continuando a prendere sotto gamba, sembra. Ma De Luca ha puntato tutto sulla prevenzione, anche con modi molto spicci, alle volte un po' coloriti e sicuramente molto diretti. Ha preso delle misure molto drastiche che hanno anticipato a volte di alcuni giorni poi quelle prese dal governo per un semplice motivo. Sa bene che in Campania, al sud in generale, bisogna è meglio prevenire che reprimere questo virus, perché poi dopo, se si finisce negli ospedali la livello medio sanitario delle strutture, dei servizi in generale non è distante anni luce rispetto a quello della Lombardia, lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, adesso lo tocchiamo con mano con questo maledetto virus. Quindi De Luca può lavorare molto sulla prevenzione, teme ancora adesso che ci sia un'ondata forte di contagiati e quindi di persone che si aggravano, che quindi hanno bisogno di terapie intensive che mancano. E da questo quindi alza ancora una volta il tono, perché obiettivamente sono giorni che sta aspettando mascherine, ventilatori e sistemi, insomma, per curare chi ha il virus e soprattutto per difendere i medici che sono in prima linea, che sono quelli più esposti al contagio. E quindi, insomma, alza i toni per farsi sentire, ben sapendo che fino ad ora è stato un po' trascurato, perché se siamo in guerra, questo fronte, il fronte principale, sta in Lombardia e in Veneto. Qui, se Dio vuole, siamo ancora, diciamo, in una certa retrovia, sempre usando dei termini che non avremmo mai voluto usare, però sa bene che se gli ospedali si riempiranno ancora, allora la situazione potrà diventare critica. Comunque Federico Monga, è vero che le persone non sono ancora così consapevoli dei rischi fortissimi che corrono al sud, nelle regioni del sud? Bisogna fare alcune differenze. Ci sono alcune zone popolari del centro storico, della periferia di Napoli, dove ancora c'è troppa gente in giro, però bisogna anche fare un ragionamento. Questo virus veramente ha fotografato tutta l'Italia nei suoi problemi, nei suoi ritardi, e tra questi problemi ci sono anche queste zone con una forte un'alta densità di popolazione, che vivono una sull'altra, che vivono in un vicolo, e le persone che vanno a fare la spesa in un vicolo più facilmente fanno massa e fanno gruppo rispetto a un grande piazzale di un supermercato della pianura padana. C'è chi sta trascorrendo, noi domani lo raccontiamo con un reportage, la quarantena nei bassi napoletani. Esistono ancora i bassi napoletani, non è che sono folklore, esistono davvero. E stare in un basso napoletano, 5-6 persone, non è come stare in 4-5 in una casa di 120 certo. metri quadrati. Beh, ci sono persone che ci raccontano che uscivano dal basso, il basso lo usavano per andare a dormire e cucinare la donna di casa, gli altri che andavano fuori anche quando erano malati. Quindi la condizione è particolare. Poi certo, diciamo che i napoletani nel mezzogiorno il senso, diciamo, di disciplina non è una delle doti migliori, diciamo così, uno dei pregi migliori, e quindi insomma unendo questi due problemi si vede ancora, insomma, in alcune zone ancora troppa gente in giro, ecco. Federico, e voi come campagna informativa, anche come media, insomma, come presidio di informazione, sì. Che cosa potete fare, cosa state facendo? Ma noi tutti i giorni, con interviste, denunce, commenti, continuiamo a ripetere: state a casa, rimanete a casa, dovete stare ancora a casa, soprattutto adesso se si vedrà che i dati sono in leggero miglioramento, perché a ricadere, far rinascere un altro focolaio ci vuole veramente poco. Quindi ora il momento diventa ancora più difficile, perché da quello che dicono molti epidemiologi forse siamo non proprio alla fase 2 ma alla fase 1,5, ci dice Ricciardi domani in un'intervista. Quindi questo è un momento decisivo, ci vuole pochissimo per ritornare indietro, invece ci vuole ancora molto da fare per restare a casa, non assembrarsi, per diluire ancora questo virus, in modo che insomma la curva dei contagi cominci lentamente a decrescere, sperando che poi insomma si ottenga lo stesso effetto che c'è stato in Cina. Bisogna avere, Federico, appunto il senso della meta, e lo vogliamo dire con un abbraccio e con forza a tutte le regioni sud, ai è nostri. Una bellissima espressione. Ecco, che mi raccomando, avete visto che cosa sta succedendo nel nord? Fate in modo che non succeda lo stesso al sud, per quello che dicevamo, per quello che diceva anche il direttore del Mattino Federico Monga, appunto, che denunciano i presidenti di regione del sud che il sistema sanitario non è lo stesso. È già quello al nord che è eccellente, è collassato, figuriamoci che cosa può succedere. Quindi cerchiamo di evitarlo, cerchiamo di prevenire nel modo più assoluto. Prego, Federico. E poi c'è un problema, che è un problema nazionale, è un problema quasi globale di approvvigionamento dei beni sanitari necessari: mascherine, protezioni, letti per rianimazioni, ventilatori, tutto quello che serve, perché tutto il mondo sta cercando e sta acquistando gli stessi beni. I prezzi stanno salendo, alcuni paesi bloccano alle dogane beni, stock di beni che sono destinati all'Italia o altri paesi. La stessa Italia ha bloccato alcuni beni che erano destinati alla Grecia. Quindi c'è questo problema, e ovviamente chi non è proprio in prima linea non viene privilegiato da parte della protezione civile, che deve fornire gli strumenti necessari a chi sta soffrendo di più. E quindi c'è un grandissimo problema di approvvigionamento. Tutti quanti stiamo facendo delle raccolte di fondi, di solidarietà, per dare mezzi economici agli ospedali, ai medici, alle strutture che sono in prima linea contro il coronavirus, però tutti dicono: adesso noi i soldi, bene o male, ce li abbiamo, il nostro problema è acquistare la merce. Questo è un grandissimo problema. Insomma, ne hai elencati parecchi. Speriamo insomma che risponda anche appunto la protezione civile, il governo, in questa situazione che è di emergenza per tutti, ma per fare da diga noi al nord rispetto a quello che potrebbe succedere al sud. Grazie Federico Monga, direttore del Mattino, e buon lavoro e un abbraccio. Grazie. Grazie. Ciao Federico. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, passo quindi da un argomento all'altro, sempre inevitabilmente legato alla pandemia di coronavirus e all'epidemia di coronavirus nel nostro paese. Sono ormai settimane, no, che lo ripetiamo, che medici e infermieri, donne e uomini in prima linea negli ospedali, nel pronto soccorso, negli ambulatori, nelle case di cura, nelle case di riposo, sono i nostri eroi, eroi di questi frangenti cupi nei quali siamo inaspettatamente piombati. E però anche medici e infermieri si ammalano e purtroppo alcune volte anche muoiono, diversi di loro sono già morti. Per quanto riguarda i medici, sono finora 33. Oggi è deceduta a Bergamo la dottoressa Vincenza Amato, dirigente responsabile di igiene e sanità pubblica del Dipartimento Prevenzione Sanitaria, e altri due medici si aggiungono nella lista di decessi dei camici bianchi, sono due odontoiatri di Brescia, Mario Calonghi e Gabriele Lombardi, e questo conteggio lo fa la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. E allora c'è una richiesta a proposito di queste morti: lo Stato dia un segnale forte e chiaro, deve indennizzare le famiglie di medici e infermieri deceduti per la loro attività di tutela della salute pubblica, altrimenti siamo pronti a dare battaglia. A dirlo da Torino è l'avvocato Gino Arnone, avvocato specializzato in risarcimento danni. Buonasera avvocato. Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori di Radio 24. Allora avvocato, effettivamente anch'io me l'ero chiesta, varie persone avranno riflettuto su questo, no? Vedere medici e infermieri che sono in primissima linea, che rischiano costantemente, e quando se ne vanno, quando muoiono, poi le loro famiglie, i loro compagni, i figli, insomma chiunque, i loro cari, a quel punto deve essere lasciato così, abbandonato un po' a se stesso. E quindi lei ha pensato a questo indennizzo perché c'è una famiglia che ha cominciato, no, su questa strada? Sì, esattamente questo, quello di cui stiamo parlando. Una famiglia si è rivolta chiedendo quale tipo di meccanismo poteva essere messo in piedi per garantire un minimo di tutela economica, superata, diciamo così, la prima fase dello sgomento esistenziale. Ed effettivamente a noi legali viene dato il compito di andare a capire quali sono gli strumenti più adeguati, ed effettivamente, anche se la pandemia del Covid-19 è senza precedenti, cioè rappresenta un unicum col quale il nostro ordinamento giuridico non si è ancora confrontato, riteniamo che ci siano gli strumenti adatti per garantire una forma di tutela indennitaria ai familiari di questi eroi che sono in trincea ogni giorno. In particolare c'è una normativa che ha un nome, se vogliamo, anche molto enfatico, no? È la normativa che prevede l'indennizzo per le vittime del dovere, no? È una normativa che in origine era prevista per le vittime del terrorismo, dei crimini della mafia, quindi per la criminalità organizzata, e che col passare del tempo è stata poi azionata per un numero più ampio di soggetti. Noi abbiamo verificato che all'interno di, diciamo così, uno dei commi di questa normativa era previsto l'indennizzo per i dipendenti pubblici, quindi i sanitari, gli operatori del 118, gli infermieri, i medici a vario titolo coinvolti nella gestione dell'emergenza, sono sicuramente enti pubblici, laddove siano impegnati in attività di tutela della salute pubblica, abbiano diritto all'indennizzo previsto per le vittime del dovere. Quindi noi sostanzialmente abbiamo utilizzato uno strumento che già c'era, che nel corso del tempo si è rivelato idoneo a garantire un minimo di tutela indennitaria ai familiari di queste vittime, e adesso lo metteremo alla prova. Le do un aggiornamento proprio dell'ultimo minuto, sì. Perché so che oggi hanno ripreso le attività parlamentari, l'onorevole Del Mastro ha depositato proprio sull'applicabilità dell'indennizzo previsto per le vittime del dovere alla categoria dei medici, dei sanitari, degli operatori del 118 un'interrogazione, quindi ha interrogato formalmente il governo per sapere, senza dover azionare il contenzioso, perché noi ci auguriamo che non ci sia veramente necessità di azionare il contenzioso per una vicenda così delicata, ha chiesto se i medici deceduti a causa dell'emergenza Covid-19 possano rientrare nella categoria delle vittime del dovere e quindi possono ottenere l'indennizzo previsto per legge. Quindi questo in sostanza è l'oggetto del nostro intervento. Chiarissimo Arnone, senta, abbiamo ancora 30 secondi se riesce a rispondere a questo ascoltatore che replica non mi sembra il momento giusto, riesce in sintesi a dare il senso dell'importanza di quello che sta facendo. Invece è il momento giustissimo. Io ho sentito in un estratto dell'intervento precedente il presidente Conte sostenere: siamo all'altezza del compito che ci è stato affidato, domani verremo giudicati per il nostro operato. E questo è il momento di dare un segnale forte agli operatori del mondo della sanità, che sono coinvolti in prima linea in questa battaglia. E peraltro incide sul bilancio dello Stato in maniera veramente poco significativa l'indennizzo che verrebbe liquidato a favore dei familiari. Non è una causa contro nessuno, si chiede semplicemente un atto di solidarietà da parte dello Stato nei confronti dei sanitari. Chiarissimo. Si dice sempre sono i nostri eroi, sono in prima linea, la gratitudine è riconosciuta in maniera incondizionata e che si faccia un passo concreto nei confronti delle famiglie. Chiarissimo. Un caro. Grazie avvocato Gino Arnone, grazie a voi, buon lavoro. Grazie agli ascoltatori. A lei. Ora invece ci colleghiamo con gli Stati Uniti, con New York, dove c'è il nostro Riccardo Barlam. Buonasera, ciao Roberta. Caro Riccardo, allora è arrivata una valanga di dollari mai vista per salvare l'economia e le famiglie americane, almeno dovrebbe essere stanziata, no, per le conseguenze della pandemia, però c'è Trump che continua a dire, ieri ha detto l'influenza normale fa più vittime, anche gli incidenti stradali, non per questo fermiamo le macchine, insomma da una parte quindi stanzia, credo che ci debba essere ancora qualche passaggio parlamentare, i soldi per aiutare le famiglie, e dall'altra dice vedo già la luce fuori dal tunnel e come avevi detto tu ieri a Pasqua il 12 aprile già vorrebbe riaprire tutto, no? Beh sì, in realtà poi il suo lo scienziato lì che collabora con lui subito dopo lo ha contraddetto, gli ha dovuto precisare, devo dire questo uomo si vede piccolino, Anthony Fauci, e ha detto guardate che dove l'epidemia però ci sarà l'epidemia non si potrà subito togliere come dire le misure eccezionali di isolamento, come dire lo stesso suo collaboratore lo ha contraddetto oggi, peraltro questi 2.000 miliardi di dollari che arriveranno agli americani, ci sono già state le prime bocciature, il governatore di New York, lo stato di New York, Andrew Cuomo, ha definito questi soldi una goccia nel mare, perché lui ha ricordato che su questi 2.000 miliardi gliene arriveranno più o meno 5, ma 15 gli tolgono perché tolgono le tasse agli americani, quindi già dai minori introiti fiscali lo Stato perde 15 miliardi, quindi insomma... gli annunci sono una cosa, poi la realtà ahimè è un'altra. Chiaro, Riccardo, senti, e a proposito invece dei numeri, dei dati per quanto riguarda gli Stati Uniti, so che New York continua a essere la città più in difficoltà, no? Sì, la crescita esponenziale della pandemia negli Stati Uniti, 20 milioni di abitanti, 9 concentrati a New York, la città più popolata del paese, è un problema perché la gente vive nelle case piccole, nei building o nei grattacieli e quindi escono e vanno nei parchi, non tutti hanno la mascherina, ieri io per esempio ho notato che nessun poliziotto ha la mascherina, quelli che sono per le strade, e oggi è uscita la notizia che tanti di questi poliziotti ahimè sono malati. Quindi certo tarda ad arrivare una vera consapevolezza, soprattutto se c'è un presidente dello Stato più potente del mondo che continua a sottovalutare la questione, a dire come ha detto ieri questo non è un paese che può stare chiuso, è chiaro che poi quello che si recepisce a livello di popolazione è quel messaggio. Riccardo, il problema di Trump è che a volte ascolta gli scienziati, altre volte ascolta i consiglieri politici, quando ascolta i consiglieri politici fa queste frasi che sono del tutto svianti rispetto alla situazione. Appunto, tra l'altro il suo amico Bolsonaro, presidente del Brasile, oggi anche lui ha detto dobbiamo lasciare aperto, questa è un'isteria, è una psicosi assurda, non serve a niente tenere chiuso, insomma speriamo bene per loro ma anche per noi perché poi ci sono anche le ondate di ritorno. Grazie Riccardo Barlam. La frase più bella, se posso dire in un secondo, l'ha detta Cuomo a Trump oggi, che gli ha mandato 400 respiratori, gli ha detto che cosa vuole che gli faccio, gli dia una pacca sulle spalle per aver inviato 400 ventilatori, a me me ne servono 30.000. Trump non ha capito l'entità del problema. No, non l'ha capita. Grazie Riccardo Barlam da New York, un abbraccio. Abbraccio. annunceremo, intanto ci sentiamo alle 22.